Buonasera Savino. E beh, insomma. Come va? Sì, come va? Ero coricato poco fa, ma non riuscivo a dormire e me ne sono alzato. Ah, ti sei coricato, poi io per niente, sono stamattina alle 5 in piedi. Figurati. Non voglio neanche ricoricarmi. No, io mi sono coricato dopo pranzo, però non riuscivo a dormire, allora me ne sono tornato alzato. Hai fatto bene, almeno. Cosa ci fai coricato? Non ci fai nulla. Tra noi e basta. E tu cosa ti prendi? Nulla, sto facendo la cosa che sto facendo, niente. Manco di riparazione sto facendo, io no, non me ne frega un cazzo. Manco le mie faccio, niente. Sistemabile, arriva a torre, ma adesso se mi ricordo sono lì, vado, mi prendo i fusibili e mi sistemo un alimentatore grande, quello là che ha più di 20 anni. Figurati tu. Capito. E oramai cosa vuoi fare? Non puoi fare nulla, non puoi fare lavoro in me, non puoi fare un accidente. Quindi deve stare per forza a casa, a girarti le balle e basta, non puoi fare altro. Se beccano facendo qualche lavoro in me, non ti fottono. Quindi. E quando non te ne viene voglia, per forza. Vabbè, non te ne viene voglia, no. Dalla assenze sociali per fare come si faceva la volta, 3 ore al giorno, un giorno sì, un giorno no, hai capito? Per tenere il reddito di cittadinanza, soprattutto un po' no. Mi hanno già chiamato, mi hanno chiesto il curriculum, eccetera, eccetera, cosa si può fare, eccetera, cosa ho fatto, cosa non ho fatto. E quindi adesso chiameranno a tutti, dopodiché faranno qualche selezione, cosa ne so, per fare questi lavori socialmente utili, come prima tagliare erba, hai visto tutto quanto pieno d'erba? Tutte le scuole sono piene d'erba, non c'è più nessuno che taglia, sarà più di 2 come minimo. Su Facebook c'è un apparecchio dei camici. Sì, più di uno c'è, ho visto ce ne sono tanti, ci sono 140, ci sono gli Icom, ci sono i coso, le 430, 440, di tutto, ma i prezzi sono tutti esorbitanti, ma stai scherzando che tu puoi pagare un apparato quella cifra lì, ma stai scherzando, che se lo tenga a casa che è meglio, ti abbassa la cresta quando vuole, non ti preoccupare, si crede che volta che c'è il lockdown la gente ha bisogno di usare apparati del genere e non sono tutta cara in culo. E 4.30 era questo. Vabbè, ma per il 4.30 sai cosa mi compro per il 4.30? Mi compro quel telefono fuori e mi piglio un bel motorino, capito? Quelli senza assicurazione, senza patente, senza un tubo, l'ultimo che è uscito, che bello. Mi prendo quello, mi faccio delle piccole ratte, ogni mese, se a me non me ne vado in giro, me ne vado, sono buttato a casa a rompermi le balle e a stare a baracchino. E come sono questi motorini? Sono motorini, sono scooter elettrici solo. Basta guardare, si chiama Autobike, si chiama. Adesso ho fatto l'ultimo modello, che è bello, è molto meglio di quello che c'era prima. Poi c'era un modello addirittura che sembra camminato, cioè in pratica c'hai sei coperto davanti e nei lati no, hai capito? Io ho capito, quelle macchinette che usano gli invalidi. Esatto, sì, quelle macchinette a tre ruote. Vabbè, quelle lì sono a tre ruote, ma quello che ho detto, piano io proprio lo scooter a due ruote, non a tre ruote. Ah, ho sì. Ma no, quelle dei vari grivali, dimmi, che sono quattro ruote, piccolini, massi. Basta guardare su TCS, lo vedi subito, c'è la pubblicità, te la guardi. Ce ne sono due modelli, c'è quello patascuto e c'è l'altro a tre ruote, che è bellino lo stesso. Il coperto davanti e i fiati si è aperto, ti metti un giubbotto e quando piove a me non ti arriva l'acqua in faccia. Ho capito. C'è anche lo stereo, c'è lo scooter, quello normale, figurati. C'è tutto, cosa vuoi di più? A poco a poco ti puoi mettere anche il baracchino di ricchezza, gira gira. Nel tassi lo stereo ci metti il baracchino lì e l'antenna dietro. Roba di trizzi ci sono qua. Sì, anche su un codo. Gli apparecchi sono un sacco di pezzi sottocovati, ma stai scherzando, che uno va a comprarsi una cosa di 20 anni fa, 25 anni fa, 390 euro, chi ne vuole 500, chi 700, chi... Ah, ce la fai. Ma che se la tengono conto, una roba lì. C'era l'altro giorno una linea a cazzo che sarà stata nel 1970, ne voleva 800 euro, ma quello è pazzo tutto. Quello è scemo. Ma la via lì l'aveva pigliata, davanti a lui l'aveva pigliata, l'aveva messa sotto la macchina, l'aveva messa. E i prezzi esorbitanti, si crede, in niente di pura, ridi in abbo. È una cosa allucinante. E per quello già non ho mai chiamato nessuno per quel motivo lì. Capito? Se la possono tenere conto. È come se tu metti un FM 500S per dire 250 euro. Tu magari lo scemo che se lo compra. Infatti. Vabbè, il Turner come il mio, cazzo. Questi sono, sì. L'unica cosa è me. Quando c'è un po' di soldi da fare, tanto stanno facendo le fiere, si va in 4-5 persone in macchina, ci si mette d'accordo, si sale in traghetto e ti carichi la macchina di apparecchi. Vai lì in fiera, ti prendi quello che ti pare ti piace a metà prezzo. Infatti è giusto così che sia a metà prezzo, mi dici un 140 con alimentatore, microfono, 600 euro, ma chi c'è male? Sì, perché c'è l'alimentatore, ma è venuto a scoppare la cosa, l'alimentatore tacca per in culo. A me mi serve l'apparato, tiro 250 euro, siamo a posto, e l'alimentatore te lo tiri tu. Ho preso anche il microfono. Ehi, no, ma non te ne vendono, ho capito, solo l'apparato non te lo vendono, è una linea completa questa. Però, Io ricetto già non viene a prendere con la linea completa, ma cosa si ammanca? Mi auguro che riesca a venderlo a qualche africano. Un accordatore della DRIC da 2 kW, lo vogliono 370 euro. Se avessi avuto magari qualche amico senegalese, se avessi ascoltato una cosa, compra una roba e te la vendi in Senegal. In dubbio, così non ti fai un po' di soldi. Fai tutto a blocco, completo. Almeno ti fai un po' di soldi. Magari si fanno anche antenne smontate, e gli manca la metà dei pizzi, 150 euro, ma a me la vai. Infatti. Certo, la Vega 27, che mi mancava la metà dei pizzi e la stavo vendendo, ma che coraggio ci vuole, ma mica ci vuole coraggio davvero. Ehi, tu vendono robe scappanti e li vuoi aprire giù, hai visto cosa è che ci da sé un coso, un... Come gli hai detto? bombe di roba, cioè. Hai capito? Non sanno che fottere. Cazzo, un alimentatore stabilizzato, 23 ampere, 120 euro, di quelli vecchio, come dovrebbe. E l'alfa elettronica è quello che ho io, uguale. Solo che mancano gli strumenti. Sì, alfa elettronica, non ha gli strumenti. A L626. Figurati. Ci metto il mio, 200 euro con questi gli strumenti, c'è 30 anni di vita questo alimentatore, 30 anni, tutti. Invece uno switching 100 euro lo vogliono. L'altro giorno ho fatto vedere, c'era uno switching in cinese, ne valeva 50 euro, quanto costa? 12 costa. Siamo andato bene già con questi prezzi di pagare e cose di appalti. Per carità. Ma per carità, sì. Adesso si stanno vedendo tutto perché non c'è più gente. Sì, non è che la scusa non c'è tanto perché non c'è più gente. Non è quella la scusa, no. Non sanno come fate le persone, capito? E quindi con la scusa del lockdown che si fanno pagare la roba al doppio. E infatti, io ho la vita compare e ci stanno fatto. Ma, c'era addirittura, c'è un tornato che mi sembrava quello 200 io. Ce l'ho uguale io, invece a 20 anni. È tornato, e poi non è tornato, ma comunque, il 4005. E poi 200 euro per pure. Poi capito, c'è di prezzi qua, allucinante. Non è entrato nessuno stasera, Antonio. Ancora non sento nessuno, in realtà. Non sento nessuno ancora. Stavo dicendo, com'è quella radio di questo microfono? Che gli ho messo a posto i contatti, stava facendo difetto. E invece che nonno il suo microfono. Sì, benissimo. La radio 5 è bella amplificata. Ehi, a metà è... Esce forte. Esce veramente forte. Ti sentito quelli di una cosa finita subito nel pronto soccorso il PMR, vogliamo sequestrare tutti gli apparecchi qui gli 888 che l'ho comprato. Io sento quelli dei vaccini della Camera del Commercio, però sono in LPD. Già lo so quello, canale 1 so, però in PMR sul canale 7 non ho più sentito quelli del pronto soccorso, ho visto che apparati ci hanno perché un giorno è capitato di andare al pronto soccorso perché c'era Giovanna e c'era anche Mirko, hai capito, tutti e due, quindi Giovanna ha dato i fatti suoi, io ho dovuto tenere mio nipote perché ero maggiorenne e quindi l'ho portato su l'ortopedia perché a mettere il gesso e stavo usando l'ortopedia, stavo usando, non li ho più sentiti adesso da quando è sarà minimo un mese e mezzo che non li sento parlare, quello li sento tutte le mattina e sera, adesso non li sento più, evidentemente o gli ha detto qualcosa a qualcuno, e magari hanno cambiato canale. Sì, non credo, perché non c'era nessuno, c'era solo Meteorolo sul 7. Capito. Noi riconosci bene, quando sono entrati loro, la verità non è un... Sì, il primo giorno mi hanno detto che è male, la verità. Poi, vabbè, aggiunto, mi lascio parlare, se la biglia in culo, se la me la fuori. Però, tu sentite. O hanno cambiato apparato. No, magari che lo sapevano come si chiama mi se dovesse lì all'interno delle, non usavo la vigilanza notturna, capito? Cosa volevo dovesse per passare, cioè per parlare da una parte all'altra per i compiti. Quindi evidentemente finito i compiti hanno messo le radio da parte. Non lo so. No, non ti sentite io, sono una bella di non mi sento. Sento solo quelli che stanno lì alla, tutti i giorni. Iniziano la mattina a mezzogiorno e mezzo, fino alle 6. La seconda tranche, poi la mattina, la prima tranche dalle 9. Figurati. Se li hanno messi da parte quelli del pronto soccorso non li stanno più usando. E poi però c'erano quelli della vigilanza che li usavano, perché io quando andavo al coso, alla a fare la visita per il diabete, ce le avevano quelle radio e parlavano. Non so cosa dirti, io... Sto dicendo che ho salvato per Giovanna, ho visto la parata che stava usando l'auto S, quindi era quello che sto dicendo. Usavano tra pronto soccorso e reparto, capito? Lo usavano. Anche per trasportare le persone, poi vabbè, la vigilanza usava un apparato diverso, è una frequenza diversa, lì ci sono, stanno usando i, come si chiama, i 462 come frequenza, in pratica. E sono 888 sempre, no? Sì, sono sempre la stessa unità, cosa solo che cambia la frequenza, non è TMR, è 462-125 la frequenza, hai capito? Sono quelli che comprano dai cinesi, né? Me ne accorgo. Chiediamo due la coppia, vabbè, che adesso poi si sono organizzati e vanno su internet e si prendono per dire... No, ti ho detto che sono stati Mario con le macchine, €40, a dicevo uno vanno bene, se apparecchi €60, quindi per una vita va bene, capito? Sai che ne prendi i 12 e sono €120, fai un... spendi poco e va benissimo. Ricevono bene Mirko gli 88, hanno una bella ricezione qui. Lo dico a me. Ne ho dato uno a Giuseppe Di Lucino, di quelli, poi ne ho comprato due io, ne ho venduti a Marino, una coppia, e usciva veramente bene, anche di radio. Poi mi sono tenuto solamente i corsi, gli altri due PMR che ho, PMR LPD. I primi che ho usato, perché gli ho tolto, ma erano staccati, capito, lasciati buttati a casa. Comunque ci sono in vendita, costano una cazzata. Se vai su Facebook, in quella cosa lì, c'è una ditta attaccata che te la sei per volta, €60, voglia, già programmati tutto. E l'UTD e PMR. E io ce li ho due, me li ho programmati col computer e gli ho messo le frequenze che volevo io. Quindi è risparmiato, visto? Ho preso una cazzata a costo ancora. Meno male. Adesso sono usciti quelli nuovi, va bene, mi dice chi ha 18 watt, chi ne ha 40 addirittura. Sono usciti gli ultimi della Baofeng, sono veramente belli. Pompano quelli. Portatili, ne ho quattro. Sì, portatili. C'ho due VHF, il KP250, c'ho due nuovi, poi c'ho due apparati VHF lo stesso, tanto da 140-160, la tastiera, uno dei più piccolino, cioè di quelli che fanno da mezzo watt. Voglio portarteli, non me ne manca, capito? E poi c'è il veicolare, quello cinese, che mi ha regalato mio cognato. Poi c'è il veicolare, i fermarini, i pacifici, quelli montano le batterie da 1,5, quelle normali. E anche il pacco batterie suo, addirittura. E poi io gli ho messo le batterie ricaricabili e sono perfetti. Vedi, uno di quelli mari me lo devi dare a me. Se ti prendi ti prendi la coppia, noi due, ti prendi la coppia, ci mettiamo d'accordo e ne fai. Sono due pacifici, sono nuovi, nuovi, nuovi. Sono già espansi perché fanno fino all'88 marino, per te li puoi programmare anche tu. C'hanno la stessa programmazione del Buffet, li puoi mettere tra questi che ti piace a te. Quindi tutta la frequenza marina ce l'hanno. Da l'uno fino al 88 e poi andando c'è libera istruzione, c'è la scarica, hai capito? Quindi se te li prendi, te li prendi la coppia, ci mettiamo d'accordo e te li prendi. Perché prendere uno solo non me ne frega nulla, cioè, capito? No, era per ascoltare la banda marina, non è per usarli, no, per ascoltare la banda marina. Che questo prende tutto questo ricevitore, mi chiedo io, c'è la banda aerea, banda marina, insomma, ne ha poco di roba. Solo per ascoltare la banda marina da sola, perché mi bloccava il collo e allora l'ho eliminato, la banda marina. Mi ho messo solo i privati che volevo io e praticamente funziona con i canali che voglio io, perché se metto la banda marina sempre di prima va lo scanner. Ciao, grazie. C'è lo scanner, c'è tutto questo qui, io ho due, sono due Pacific in scatola, uno. Ho preso di carica batteria, avanti di qua, dimmi. Dimmi se va bene la radio e se il segnale è alto rispetto ad altre volte. Sì, 9,25 è qualche cosa, con l'FM500S, eh? Ah, con l'FM500S. Capito, Dio. Va bene, va bene. Ascolta, è la radio buona? E a voi è buona. Non è satura niente, va bene? No, no, è perfetta, io ti sento bene, la verità, ti sento chiaro, ma per me penso lo stesso, perché vabbè, non siamo più vicini, uno attaccato all'altro, ti ricordi quando attaccavo io mi sentivi male tu, e quando attaccavi tu ti sentivo male io, questa volta ci sentiamo chiari chiari. Beh, prima non c'era la distanza, adesso c'è la distanza, quindi qualche volta in più lo puoi dare. Calma del Rogero, Natali va bene, sto uscendo bene del radio. Un po' troppo forte mi sembra. Anche troppo forte, ce l'ho a due. Sto usando il Tano in più 3 col Galaxy che c'erano le connessioni sbagliate, infatti non stava andando il microfono. Ce l'ho a due, se lo metto a uno non esce più, cava cava. Ho capito, comunque è forte. Forte anche il segnale, va bene? Il segnale non l'avevo visto. Il segnale non l'avevi visto? Riguardalo allora il segnale, dimmi a vedere quanto è il segnale. Se va bene così, la radio la lasciamo, il 27 non se ne fa vedere più. 9,20 sta arrivando. Allora, va bene, va. Ma mi interessa la radio, se la radio è buona, lasciamo così, perché sono stufato di usare il K27, l'ho messo in HF, nel 27 usiamo il Galaxy. E infatti. Tanto va bene, Natali, quello di uno e l'altro, noi ci abbiamo valuta. Ok, dai, allora se va bene così lo lascio e ci sentiamo dopo che metto tutto a posto, vai Anto. D'accordo, no, adesso scendo bene, a voglia, ci metterebbe. È perfetto. chiamava l'altra di capa e per far sentire il coso. L'importante è 2 secondi. Senti. Aspetta, vediamo un po', vado sul coso. Pensavo mi facevano una cosa del genere. Il primo lo l'ho tollerato un pochettino, ma il secondo ha buttato giù il brutto. Dolori alle braccia, alle vene, che non si potevano sopportare. Mi ho dovuto prendere la medicina perché non era possibile, capito? Come prendiamo qualcosa in mano, mi tirava il muscolo, come se fosse prendendo qualche cosa di strano. Niente, capito? Allora, meno male, ha fatto il cattipirina, il spirito, ho fatto l'inflammazione che ci ha dato le braccia, e le braccia, tutti e due, nella parte superiore, capito? E invece a me non mi ha fatto nulla, né il primo né il secondo. Siamo andati io e mia moglie, tutte e due, e non ci ha fatto niente. A noi ci hanno fatto il Pfizer, a te non lo so cosa stiamo a fare. A me mi ha fatto il Moderna, a Simona mi ha fatto il Pfizer. Non mi ha fatto niente a me. Nel primo e nel secondo che ho fatto il cerullo. Dipende da persona a persona. Anche Giovanna gli ha fracassato il braccio ieri. Anzi, ieri gli faceva ben male. Avanti ieri si è fatto il vaccino. Dice, mi sento, dopo 4 ore mi ha fatto effetto. Dice, mi sento il braccio, mi fa male. Aspetta, la voglio attirare, ho detto, vieni immediatamente una tachipirina, così ti passano i tuoi dolori, ho detto. È l'unica cosa. A me l'ha preso, a mal di denti. La febbre, dolore alle braccia e dolore alle colonne articolari. Capito? Io la dico. Allora faccia. A me non mi ha fatto niente. L'unica cosa che mi aveva fatto male il braccio era quello antifluenza che mi aveva fatto la dottoressa via, che mi aveva pigliata frutta. Ci sono arrivati a 3 punti di influenza, non l'ho più fatto. Perché ormai non devi fare, non devi mai proprio nulla del vaccino per l'influenza, basta che ci con la mascherina l'influenza non te la prendi. Ce ne sono accorti tutti. Dice, non c'è più influenza in Italia, già lo credo, cazzo, siamo tutti con la mascherina, che cazzo di influenza ti prendi? L'unica influenza che ti può pigliare è quando vai al supermercato che passi e ci sono 35 gradi fuori in vento e ti mettono il condizionatore a manetta del patto su gelati. Come passi lì ti cantareggia, se sei caldo immediatamente ti si forma la condensa nella pancia, sei ghiacciato. Per dire mezzogiorno e mezzo c'è un cato da crepare perché scende a piedi, non scende in terra. Quando arrivo lì sono già caldo, diciamo che sono in movimento, no? E all'interno comincia a diventare congelato la pancia e la schiena. Come arriva la cassa, esci fuori. Molto bagnato, sì. E quindi devo mettere molto forte al sole come le chiedichette, capito? Per poter asciugarmi. Mia moglie sta andando a portare il leone a spasso. A quest'ora? Ma vabbè, già c'è il venticello, sta bene, ma ieri a quest'ora c'era un caso da crepare. È strano, ieri ho fatto la letta meteo perché c'erano 75 gradi, invece è il contrario, meno male ieri notte ha fatto quel venticello umido e diciamo se siamo stati bene e per la bene in casa non ho sofferto niente, c'avevo la testa fatta fino alle 5, alle 5 mi sono svegliato e l'ho chiusa. Questa mattina ho preso tutto quanto il calato, ho preso le sardine, me le ho messe a cucinare, le ho cucinate, ho pranzato, adesso mi sto facendo il mio. riposino seduto. Sono in cameretta, stai cominciando già a rimanere il sole, fa poco adesso comincia a fare caldo qua dentro. Però per male c'è questo venticello fresco. Si sta bene, sì. C'è un fresco lì. Immaginate qualche anno che stavo già stato fatto io. A piano terra. In piena estate che c'erano 35 gradi. C'avevo la casa che c'aveva 15 gradi più o meno. Tutto per il vino, per bere bello tranquillo, fresco, se neanche mettere il frigo, o il frigo. Dopo te, se bevi il vino, vuol dire che uscire fuori, penso a l'ora, l'ora e mezzo, le due, andava a prendere il trattato, se non ti saliva il vino, e ti saliva anche la piena, cosa ne dai? Certo, invece ce ne va veramente bene il vino, io. Però fammelo, per dire quella cosa lì, fammi una cantina per dire, ci hanno messo le botti dentro, avevo fatto il vino, me l'avevo venduto, sarebbe stato sempre la temperatura giusta, 10-15 gradi, non di più, sia sopra, bastava che sfondavo per dire il pavimento e ci avevo la cantina che c'era sotto. Io ti lascio che devo fare cosa qua, io rimango in ascolto. D'accordo, ciao, buon ascolto, ci sentiamo là. Cicco. Attenzione Natalino, ci sei? Cicco 10, Natalino, ci sei? Parte il canale 10. Natalino, sei tu? Thank you. non si sveglia nessuno. Babbo! Ciao! Ciao Gioca! Ho messo un po' la radio che sto con basso. No! Non ti sento lo Gioca, sto con basso, sì! Ma sei sicuro, Giulio? Perché io... Sento un'altra modulazione, se non c'è... Ma... bassissimi tutti e due! Cos'hai, un'altra radio è accesa, cos'hai? Ok. Sempre la stessa. Ma no, è fine. Prova. Dai, ho aumentato io il volume adesso, dai. Ora mi senti? Sì, ma sento altre cose sotto, qualche altra radio è accesa, buh. Sì, sono sempre radio accesa. Appunto, si sente più quell'altro che è di fianco con la tua voce è bassa. Sì. Ma adesso oh, sei tutto confuso insieme all'altro. Siete state come se stesse parlando in due, capito? Well, the old one measures 2.8, well, whatever. And, quando vuoi finire. Io sento un'altra modulazione. Ecco, adesso si sente, si sente ancora? No, adesso non si sente, ma poc'anzi sentivo più quell'altra modulazione, che poi non so che fosse, boh, che ne so. No, era collegato il PC, era male accorto perché stavo guardando una cosa. Non capivo da dove proveniva. Comunque adesso è staccato, quindi dovrebbe essere tranquillo. Adesso io ti sento, adesso sì. Ma poc'anzi ti copriva proprio. Sì. No, quando lo vuoi non funziona. E quando lo vuoi invece si collega da sopra. Ah, cose strane. Comunque la radio va bene perché questo è anche un microfono da tavolo. Quindi vedo i picchi, li vedo chiaramente. E adesso può andare, non è un gran tema, può andare, perché non è che sia forte per niente. Non è per niente, cioè non è la solita radio che sta usando in quest'ultimo periodo, ecco. Di più non va, perché i picchi vanno a fondo scala qua, dal punto di vista del modulatore. Vabbè, saranno a fondo scala i picchi però. Va bene, comunque già si capisce, non c'è problema. Vabbè, comunque sono da molto qua, non c'è nessuno. Visto, io ho messo lì i 10 b per svegliare qualcuno, ma a quanto sembra qua è tutto deserto. Tutti al mare, sono tutti al mare. E allora, ad abbronzare le chiappe chiare. Sì, così pare. Aspetta, voglio controllare una cosa qua. Vedere come mai. O sei tu che parli troppo basso, non lo so, con la voce troppo bassa, che ne so. O sei troppo lontano dal microfono, non lo so. Ecco, guarda così si è migliorato un pochino. Sì, così è migliorato un po', certo. Ma già va bene adesso, dai, no, non ti capisco. E qua anche sotto è al massimo sia della compressione sia del guadagno. Di norma, sarà così. Ok, vabbè, già va bene adesso, già ti capisco, non c'è problema. Va bene, io lo so che tu non usi mai una radio alta, però quando è troppo, vabbè, comunque va bene lo stesso, non c'è problema. Allora, cosa mi racconti? Io ieri ho fatto la seconda dose del vaccino. Tu l'avevi già fatta, no? No, l'ho fatta stamane. Stamane l'altra dose, e quindi dovrei essere a posto, sempre che non facciano in futuro dei richiami, perché la situazione mi sembra così così. Ah, l'hai fatta oggi, ho capito. Io l'ho fatta ieri. Ieri verso l'ora di pranzo, ci ho piegato all'incirca tra una cosa e l'altra 2 ore, perché ci saranno state almeno 1.000 di folla immensa. Vabbè, comunque, ho male fatto, dai. Almeno adesso per quanti mesi dura questo vaccino? Mi sembra che hanno detto 270 giorni, cioè 9 mesi. Staremo a vedere, poi magari bisogna ricominciare da capo di nuovo. Non lo sanno finché non passerà, se poi vedono gli anticorpi che ci sono ancora, vuol dire che funziona, ma come si fa a saperlo se non passa un anno? Quindi ne riparliamo l'anno prossimo, dai. E niente, infatti volevo dire fatto ieri, oggi c'è molta gente. Ho finito quasi a luna, sono andato a mezzogiorno. Fate fretta, io ieri sono andato a luna meno 10, meno 4, meno 10 e ne sono uscito alle 3, si può immaginare. Praticamente ci ho impiegato grosso modo 2 ore, dai. 2 ore dopo sono rientrato a casa. Vabbè, comunque anche questa è fatta, dai. Quindi accontentiamoci. Certo, non è che possiamo cambiare la situazione, invece considerato in cui è adesso questo problema, e allora bisogna cercare in qualche maniera di risolverlo, e dovremmo risolverlo tutti insieme, tutte le persone si dovrebbero impegnare più del solito, visto e considerato adesso che si sono abbassati i contagi e soprattutto i decessi. Però speriamo che non succeda come l'anno scorso, che poi magari a settembre-ottobre si comincia poi l'ascesa di nuovo. Speriamo di no. Sentirai qualche fischio, perché sto facendo il modulatore di controllo dell'audio. Ok, vabbè. No, non è un problema. Capito, Giacomo, per cui staremo a vedere, dai. Si diceva, perlomeno un po' di tempo fa, avevo sentito che questo vaccino era durevole sino a 260 giorni, poi dopodiché bisognava ricominciare. Ma comunque, speriamo invece che devi uscire a debellarlo completamente, definitivamente, perché è una cosa veramente seria. In Russia oggi mi sembra che ci sono 45.000 contagi solo in Russia, se vuoi immaginare. Sì, guarda Giulio, adesso è successo qualcosa. Adesso è al massimo, proprio al massimo possibile. Sì, adesso va benissimo, dai. Così va benissimo. Adesso sei tornato tu, dai. C'è anche la Spagna che chiama. Ma secondo me così è al 100%, come McGinn. Sentiranno anche sottofondi. Radio complicate con troppe funzioni, poi ci vuole magari un bel po' di tempo prima di assestarlo e di programmarlo come si deve essere. Vabbè, comunque, va bene così, e viva l'elettronica! No, questo è professionale. È appunto, proprio perché è professionale. Sicuramente ha mille funzioni da regolare, eccetera, per cui basta uno nulla per scombinarlo e poi devi incominciare di nuovo da capo a sistemare tutto per benino. No, non è così, Giulio, questo è semplicissimo, non c'è neanche compressore la radio, guarda, di quanto è semplice. Io adesso la riabbasso perché è esagerato, se no magari la LC si lamenta. I watt sono pochi, se mi dici che il segnale è basso, o anche se ci sto riabbassando, perché ecco, se no è esagerata la radio, cioè perlomeno quello che si vede sullo spettro qua. Ok, già va bene, ho segnale 9, segnale 9 qui, la radio già va bene così. Va bene, già lasciala così. No, perché se poi passi in banda laterale, se si mette anche il compressore, allora il problema cambia. Questa tipo di modulazione Anna lascia il tempo che trova. Poi sono tutti sparati, tutti. A me non piacciono le emissioni pulite, capito? Non mi devono sentire in 28, in 30, in 35. Sì, vabbè, comunque, ma nemmeno bisogna stare con le orecchie spalancate anche, perché magari c'è quello che arriva altissimo e deve abbassare il volume, tu invece arrivi con una modulazione di livello più basso e tocca stare aumentando il volume. Vabbè, comunque già va bene, lasciamo così che già va bene, non c'è problema. No, io il compressore me lo sono lasciato in bottega, guarda, compressore d'aria. No, l'ho tolto proprio, io non ne sto usando già da un bel po' di giorni, non sto usando più il compressore, sto usando il mic gain a 1,5 e basta, niente di più. Infatti, ecco, adesso ho cambiato radio, ho cambiato apparato, ha cambiato qualcosa, vediamo un po' qua quanto è bisogno. 5. Questa com'è? Questa è più forte sia di segnale che di radio. Questa è 9,5 adesso. La radio è anche più forte. No, vabbè, il coso è diverso. Il microfono è lo stesso. E niente, questa è un pochettino più grande, ma la radio è quasi identica. Ok, vabbè, ma ha aumentato, te lo sto dicendo, da 9 si è passato a 9,5 e la radio è un po' più forte, e devo dire che è più forte, anzi la sento anche più chiara, pensa un po', perché ha aumentato un po' di volume, è più chiara anche tra l'altro, io la sento così. No, la potenza adesso sono 5 watt, prima erano 2 watt, quindi qualcosa ha aumentato ovviamente. Appunto, quei 3 watt in più fanno sì che la radio è migliorata anche il segnale, certo, ma così, in effetti è così, per cui diciamo che ti sentivo anche prima, ma adesso va sicuramente meglio. Dipende anche dagli apparati con cui comunichi, se accendo l'altro e premo il microfono qua, cioè praticamente è troppo alta, capito? Anche usando abbastanza antenna, no? Se accendi l'altro si vede che va fuori picco, per quello che no, no. Poi è da radio a radio, ecco. Beh, certo che sì, è normale, no? Quello è normale, è una radio un po' più performante o quantomeno ho regolato in un'altra maniera rispetto a quello prima, è chiaro che adesso il miglioramento c'è stato, poi se la radio questa è superiore o inferiore all'altra io non lo posso sapere, so solo che il segnale è aumentato e anche la radio. Opa! Dillomi! Finito hai di prendersi fresco! Ho finito che ce ne sono andati tutti a mezz'ora in piedi, mi ho finito quello fare e mettere a posto. Per carità, qua la domenica siamo sempre di rabotto. E così non ci sta neanche più sulla moto. Fanno parte della famiglia, però è più conveniente per loro, per cui non ti lamentare, perché ancora è solo l'inizio, poi arriveranno sempre di più. No, qua si entra se chiamo io, se non chiamo io non ne ho io persone invadenti nella famiglia, assolutamente. Assolutamente, anzi, devo avvisarli 2-3 giorni prima per venire a pranzo o a cena, se no non c'è problema. Ho detto, ho cambiato microfono, Giulio, questo è più da combattimento. Appunto, questo è da combattimento, sì, rispetto all'altro, non è proprio quello al massimo combattimento, però è più forte rispetto a quello di stamattina, mi sembra che stavamo parlando, no? Stamattina, così? Sì. Per settare più 3. Va bene. E così è già fra. Così è ste. Vabbè. Comunque sono sempre contentissimo di come mi sono posizionato e di quelli che attorno, di quelli che vengono a farvi compagnia, non problemi. Avanti Gianfra. No, ieri l'avevo buttata giù Claudio, come poteva si dimostrare PL partito, cioè il PL, l'N di quelle antenne è andato sempre al suo problema, no? Si spacca. Automaticamente oramai ci butti via tutto. Quindi sta aumentando il parco antenne nel gettito. Ehi, quanto l'abbiamo buttato già? Sembra 3 o 4, tu, 2, io. No, io non la metto più così lunga, tanto non mi servono. Ho messo la XC50, è più che sufficiente. Va bene, attacco normale PL, N non ne ha, quindi ottimo per la truppa. Le antenne sono molto molto delicate, a me mi ha creato un sacco di problemi, anche perché io ce l'avevo sopra il sistema tralicciato in punta, e quindi per toglierla abbiamo dovuto abbassare tutto il sistema, un casino.